Il giorno fu pieno di lampi, ma ora verranno le stelle, le tacite stelle. Nei campi c'è un breve gregre di ranelle. Le tremule foglie dei pioppi trascorre una gioia leggera. Nel giorno che lampi, che scoppi, che pace la sera. Si devono aprire le stelle. Nel cielo si tenero e vivo. Là, presso le allegre ranelle, singhiozza monotono un rivo. Di tutto quel cupo tumulto, di tutta quell'aspra bufera, non resta che un dolce singulto nell'umida sera. È quella infinita tempesta finita in un rivo canoro. Dei fulmini fragili restano cirri di porpora e d'oro. Oh, stanco dolore, riposa. La nube nel giorno più nera fu quella che vedo più rosa nell'ultima sera. Che voli di rondini intorno, che gridi nell'aria serena. La fame del povero giorno prolunga la garrula cena. La parte si piccola, i nidi nel giorno non l'ebbero intera, né io, e che voli, che gridi, mia limpida sera. Don, don, e mi dicono, dormi. Mi cantano, dormi, sussurrano, dormi, bisbigliano, dormi. Là, voci di tenebra azzurra, mi sembrano canti di culla, che fanno ch'io torni com'era. Sentivo mia madre, oh, poi nulla. Sul far della sera. La mia sera, dalla raccolta Canti di Castelvecchio, 1903, di Giovanni Pascoli, pubblico dominio. Voce di Annibale Covini Gerolamo, Creative Commons 4.0 International, BY, NC, ND.